Evidentemente, resta poi anche il problema di trarre dalla propria carità pastorale tutta l'energia operativa di cui la gente ha bisogno. Non pochi preti restringono la propria carità pastorale alle questioni spirituali e morali senza accorgersi che essa chiede per sua natura di penetrare in tutti i risvolti della realtà, soprattutto là dove l'uomo è oppresso nella sua umanità. La carità cristiana esige di farsi sempre più materiale in una incarnazione irresistibile. Ma anche tra coloro che vorrebbero essere socialmente operosi non mancano tragici errori di prospettiva. A volte i ministri di Dio, quando vedono i cosiddetti laici impegnati, cioè desiderosi di vivere il dinamismo comunionale e missionario della Chiesa, subito se li chiamano attorno e li trascinano a sostenere le cosiddette attività parrocchiali, facendoli diventare, nel migliore dei casi, un prolungamento del prete. Padre Pino, come sappiamo, aveva riflettuto per anni sul tema e sui problemi delle diverse vocazioni e aveva acquisito una spiccata sensibilità verso la missione dei laici, frequentando con immutata simpatia assistenti sociali, gruppi di azione cattolica, fuci, associazioni e movimenti ecclesiali di varia estrazione. Ciò l'aiutò a non cadere nell'errore di attrarre a sé i laici. Al contrario, mobilitò se stesso in mezzo ai laici. Si aggregò a quelli che già agivano, condivise le loro giuste cause, partecipò alle loro rivendicazioni e li formò nell'atto stesso di coinvolgersi. Insomma, visse il suo carisma, cioè la carità pastorale, donandolo e trasfondendolo in coloro che vivevano nel quartiere la sua stessa missione cristiana. Fece il parroco tradizionalmente, e tradizionalmente pregava, diceva messa, predicava, faceva catechesi, amministrava i sacramenti. Ma questo era solo l'inizio. Poi andava a mettere la sua carità pastorale là dove i suoi cristiani agivano, lottavano, soffrivano, gioivano. Creava in tal modo un vero movimento parrocchiale, assecondando il muoversi della sua gente e animandolo con la sua stessa anima. Perciò accompagnava i suoi laici quando bisognava andare a trattare con la burocrazia comunale per avere la scuola. Lo fece anche la mattina del giorno in cui fu ucciso. Era con loro quando bisognava intervenire sulla stampa o alla televisione per denunciare un risanamento sempre promesso e mai attuato. C'era quando bisognava coinvolgere il quartiere in qualche giusta causa. C'era quando chiesero ripetutamente l'interessamento del Presidente della Repubblica. C'era quando si trattò di mobilitare il quartiere in una festa commemorativa per Falcone e Borsellino, una festa con lo slogan «Brancaccio per la vita». C'era quando si trattò di chiedere udienza al Presidente della Commissione parlamentare antimafia, 2 giorni prima che l'uccisero. Non faceva l'agitatore politico o l'assistente sociale, ma non diceva nemmeno «tocca ai laici farlo». Come i laici erano con lui in chiesa, così lui era con i laici in strada o in comune, perché il corpo ecclesiale è uno solo. E c'era per un duplice motivo, sia per insegnare che il Vangelo predicato in parrocchia era destinato a incarnarsi nel territorio delle parrocchie, parole sue, sia in forza del suo stesso celibato sacerdotale. Nel suo quartiere, incarnare il Vangelo voleva dire rischiare la vita, e se la rischiava chi aveva moglie e figli, come poteva non rischiarla lui, che era rimasto vergine, cioè cristianamente innamorato solo di Cristo, proprio per poter curare e difendere il suo gregge? Spiegava agli amici: «Voi avete famiglia, io non ho nessuno, non ho né moglie né figli, e anche se mi ammazzano, non mi interessa». E si preoccupava che non andassero a trovarlo a tarda ora perché non facessero brutti incontri. D'altra parte, proprio quello era un tipico e tradizionale avvertimento mafioso: lascia perdere e pensa alla famiglia. Perciò si vedeva padre Puglisi accompagnare i suoi laici e attrarre su di sé l'attenzione, non certo per ostentare la propria bravura o coraggio, ma quasi per suggerire che potevano sacrificare lui se un sacrificio era necessario. Intanto i mafiosi e i benpensanti, anche qualcuno che gli era più vicino, spargevano la voce che quel prete, per la sua voglia di protagonismo, faceva fare brutta figura al quartiere. Cominciarono a ucciderlo così. Ma l'opera più inaccettabile ai mafiosi, quella che esprimeva tutta la carità del prete e tutto il progetto rivoluzionario dei suoi laici, fu la creazione del centro di accoglienza Padre Nostro. C'era in vendita una cadente palazzina situata a 300 metri dalla casa dei boss. Si informò sul prezzo, chiedevano 180 milioni. Ma quando seppero che voleva acquistarla il prete, la richiesta balzò subito a 290 milioni. Sapevano tutti che non aveva una lira. Ma padre Puglisi accettò la sfida, chiese aiuto all'arcivescovo, a numerosi confratelli e tanti amici che s'era fatto nel corso della vita, e per il resto ipotecò il suo stipendio di insegnante. Ma espose l'elenco delle offerte e degli offerenti alle porte della chiesa. L'idea gli era venuta da quando si era accorto che la mafia non solo s'era appropriata delle più belle parole cristiane come famiglia, onore, amicizia, fedeltà, stravolgendole e stravolgendo perfino alcuni riti e devozioni cristiane, ma di fatto insegnava e diffondeva una specie di parodia vissuta del Padre Nostro. Anzi, assieme ad alcuni amici, padre Pino aveva provato ad esplicitare l'antipreghiera del mafioso, quella di chi si rivolge al suo boss riconoscendolo come padrino della famiglia, il cui nome deve essere onorato, la cui volontà deve essere fatta a costo della vita, che dà a tutti i suoi picciotti pane e libertà, che non ammette il perdono perché è infamità e che solo può liberare i suoi fedeli dal rischio di cadere in mano dei poliziotti e della legge. Così è sempre stato e così sarà sempre.